piace un sacco anche arrangiarmi, e un po' come quando ho preparato la pasta con le arselle fatte la mattina, cioè a me trovarmi fermo quando sono in campeggio è difficile. Questo momento non ce n'è neanche più nella voglia, anche se ripeto mi piacerebbe rifare tutto se è possibile, però mi piacerebbe andare in campeggio, so che penso che sia quanto è possibile andare in questo momento. L'anno scorso, se devo dirti la verità, adesso te la dico tutta, abbiamo campeggiato in Alto Pettine dove c'è il bar di Filippo, ci ha dato un pezzo di coso lì dietro il bar, di spiaggia, tanto è tutta roba sua quella, ce lo siamo puliti per bene, abbiamo piantato le tende, ci abbiamo dormito, ci siamo divertiti alla grande. Da quando avevo penso 19 anni che non faccio più un campeggio, l'ultima volta l'abbiamo fatto lì a Punta Negra, io avevo dormito con due ragazze e veramente dovevo dormire con una, poi l'altra mi si sento con la ragazza e mi metto a dormire con lui. La mattina mi sono svegliato che avevo trovato questa qui che aveva la mano sopra e non sapevo come fare. Che sfigato però, Non sapevo se l'aveva fatto come era addormentata, non sapevo se spostarli. A posto te l'ha fatto, la reazione. La reazione già c'è stata, come per magia, non era un fantasma, si è alzata la mano. Ma quello che prende di tutte le mattine, vero? No, non è di tutte le mattine, forse stasera. Giuseppe, hai sentito la confessione? Cappa di positivo. Quello che succedeva alla gara. Guarda, Sì, io non ne dico bugie, ho detto quello che succedeva alla ragazza. Adesso non ti succede più, vero? La mattina sto parlando, Sì, la mattina non ti succede più. Che volte? Ai. Giuseppe, annota. Tanto mi c'è gente che fa la spavalda e poi non è così. Non ci credo io a certe cose. No. Io ho ancora tutte le mattine. Ed ho per te per te. Ma lo sai che cosa è? Che puramente quando mi alzo. Buonasera a tutti. E tu hai esigito? Cianto. Tu facciamo forse un discorso un po' così e salti fuori. Buonasera Bombolo, buonasera. Mannaggia, tu stai entrando in frequenza e Giuseppe sta mollando. Mannaggia la Marina, domani siamo di tournée di nuovo. E intanto anch'io sto quasi per chiudere, perché anch'io domani mattina devo fare un'altra presto. Cappa, dai, allora vi precedo io così almeno poi non ci sovrapporiamo salutandoci. E serena notte a tutti, buon 144 quando lo fate, serena notte a tutto il QRA familiare, a te Pierpaolo, a doppio rum e a buon pompolo. 144 per quanto riguarda Giuseppe e ce la sentiamo sicuramente domani quando rientro provo a lanciare un zicchirrio. Buonanotte a tutti ragazzi, a domani. Ciao Giuseppe, buonanotte. Sentiamo, buon trabacco per domani. Ehi Giuseppe, buonanotte, buon trabacco per domani. Casomai ci sentiamo domani per quell'alimentatore, dai. Cappa di positivo per Palai, non ci sta problema. Tanto io ripeto, come sto rientrando, appena sono in zona che si può ricevere il mio segnale dalla barra, tutto al più provo a chiamarvi, dai, se siete in ascolto. Papà, sono addormentato, per quello che non ho potuto parlare perché già avevo un po' di stanchezza addosso. Tranquillo Popolini, non ci sta problema, non ti devi giustificare per niente, ci mancherebbe altro. E nel caso ci sentiamo domani per quell'alimentatore e ti do quella cosa lì, mi bombolo, così almeno ti fai quel lavoretto che ti devi fare. Se mi dici quant'è, ti do, non c'è problema. Ti devi dare niente, bombolo, è tutto a posto così, vai tranquillo, è tutto K di Roger. Signori, serena notte a tutti, 144 per il sottoscritto. Ciao Giuseppe, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ma perché aveva chiuso, mi pare, vero? No, non ha più risposto, che diversi. Parchetto, ci sei? Pedro Mito. Parchetto si è addormentato, K. Però senti Gianni che sono di nuovo senza voce. Via. Elettricità dobbiamo. Questa volta però vai a farti controllare. Anche bravissimi, infatti di sicuro senza voce. Ho iniziato la stamattina piano piano, la voce sta sempre calando, in questi giorni calerà ancora di più, cazzarola. Tu soffri di laringite sicuramente. È il solito problema di chi è sossillato, eh. A me mi pizzica. Ma sei stato così? Cappa, io sono stato sossillato da bambino. Da bambini a molte persone fanno venire la febbre, le tonsille si irritano e gli viene la febbre, vanno in infezione. A me hanno preso la decisione di togliermi e quindi sono senza tonsille, senza protezione e mi becca sempre. Queste grosse cazzonote non sono state due mesi. Allora se mi dice che gli avessi impicciato e non venne pure niente, niente più, dici, era svegliato poco, continuate di rompere, la dovete ripassare, passa, adesso stavolta sono sempre più in calma, ma fine che domani mattina non c'ho più un filo di voce. Ma ti succedeva spesso la sera, la sera ti succedeva di più, vero? Sì, la mattina anche senza voce. Stamattina ero un po' triste, poi l'altro giorno si è ripresa così un po', ma adesso è la stasera di nuovo, poco fa poi, io sto continuando a parlare e ci viene di tutto. Mi ricordo che c'è un periodo anche Mario Mau era così. Maremma, magari, ma cacco, quest'anno me la son presa, cazzo, con questa è già la seconda volta, eh. Gappa. Questo mare a mamma ieri lo sento qua sull'altra Firenze. Beh sì, lo diceva mio zio. Maremma Bugaiola, Maremma Maiala. Ma sentite esattamente in un mercatino dove c'è tanti oggettini, di artigianato e cose del genere. Siamo fermati a vederlo e questa ragazza ha detto Maremma Maiala, non è ancora passata l'ora. Siamo tutta la mattina qui ancora presto. Non ce l'ho avuto a quelle parti. Ognuno ha la sua cosa, dai. Vabbè, le sue usanze, certo. Le sue bestie. E tu pensi che lo sasso di si mette sempre che si collega a me, vai Noramara, vai. Soprattutto in Toscana, nell'entroterra, più che ma Maiala non penso che sia una bestemmia, perché penso che sia un tipo di cinghiale, il maremmano, no? Quindi con Maremma Maiala, cioè praticamente è un cinghiale che è di quella razza lì, razza Maremma. Allora, è una modifica alla bestemmia vera e propria. Allora, lo dico così, Maremma Maiala, perché di quella scrittura non lo fare dire cazzo, capito? C'è la bestemmia vera e propria. Non ci arrivi. Non ci arrivi? No, negati. Praticamente invece che la Maiala e la Maremma è un'altra cosa che c'è in chiesa. Vaga. Capito adesso? No, perché in effetti c'è la razza maremmana del maiale, diciamo del cinghiale. Sì, sì, insomma è stata un pochettino modificata la bestemmia vera e propria, che non dice così perché sotto l'usanza vera e propria del dialetto toscano, le parole così, dette così sono prese modificate, dicono così, vengono modificate le rotazioni. È più o meno come le mortacci del romano. Vabbè, ma già le mortacci tua non è. Comunque, capite, è un po' meglio più pesante, va. In caso che le mortacci tu vuol dire la morte tua. E vabbè, ma non è il mortacci tua. Quanti che tu sei che ti metti la palla, è sempre contro noi. Mortacci tua, mi sta augurando la morte, ma se devi dire che ha tirato a palla, ormai che mi vuoi avere un po' di diverso. Vabbè, diciamo che sono inteso. Non so quanto la vuoi, si vuole fare come intendita, mi dice che uno era, tirava fuori sotto al riso, uno era cascettano e l'altro era su cinque. Di questo torra ha detto canti bottici, vanno a fare la franchella con canti bottici, e non mi sai mai così a Gesù Lori, ci tacciano, grazie che cade in casa, grazie che cade in casa, grazie che cade in casa, grazie che cade in casa, mi sai mai così a Cimari, e gli dicono su cinque, questo non sei normale, proprio su Cimari, invece io me la vorreggio, sentarli di vita, 99 di maggiorie e 1 d'agonia. Attento, Gianni Raffio Roma. L'avevi fatto il pipistrello, eh? E beh, è arrivato il pipistrello, ah, ma è mangiato così, Pipistrello. Ma perché fa l'uomo della notte, là? Ossia, fai qua pipistrello, dai, ok. Pipistrello da questa parte, gappa gappa. Gappa. Via, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Guarda, sono incasinato in un parcheggio, ma anche tra i giochi scendi. Dove ti hanno chiuso? Dove ero con il carro gru, Sento già, mi senti? E io. Fatta appagare, ti fa mangiare adesso. Mamma mamma. In un parcheggio non riesci a scendere. Non fa un coballare. Ciao, la gara. Anda bene, di cosa stavate parlando? E delle frasi che lanciano in diversi posti dell'Italia, dai. Tipo Maremma Maiala, a Firenze, a Roma, Mortacci 2, insomma un po' da tutte le parti c'è sempre un'usanza di. E vorrà sempre, dai. Vagabra, Noi. tipo ti prendi la tirata a palla, non ci singoli, fatti, ti prendi poi su fuoco e sulla da benzina. Mi spiace questo discorso, dopo te ne racconto una io, invece, dai. Continuate che sto parlando con un amico che dopo me ne racconto una io. Cava cava. Per fa continua io. Patruello, via. Patruello. Oh, di Maranci, di cosa che ci ha detto era. Il Fichelli era. Un momento che lo abbiamo fatto sotto vento. E l'ha detto che se mi tocchi, così ti tocchi al dottore. E fa bricchi, fa pistole e tronaccia, la mette in rete, fa così, che è molto piccolo. Ti dica. Così l'ha detto, cazzo. Mi abbracciamo. Riccardo, no, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non so mai, non ma adesso che te venga, anche te venga un freco della caccia in zinco, tu vedi che si vede. Yeah. ne offrite voi. Ancora c'ho un po' di vita da farti. No, guarda, io c'ho la fila qua dietro la porta. Mi ha dato i numeriti. E Paolo ne ha 60. Se ne ha dato allora, ci sei tutto il conto. Che cosa c'è stata? Che anni? Dai, mi carina di no, grazie. Non ho capito. Che faccio? C'è stato a rotto di carta igienica. Allora, io... mi potreste essere sicuramente il figlio. Tu quanti anni c'hai? Sì, io. No, Yogi. Ecco, no, Yogi ci avrà 20 anni. Negativo, 28, 28. Caspita, così grave sei. Allora, devi già andare in pensione, non ce la fai più, eh. Magari, tempo io non ci so neanche se ci arriveremo alla pensione. Capo, cari, mi stai attento tu, tu sei già vicino alla pensione, quindi. A me ne mancano 11 anni. Poi hai confessato oggi che non ce la fai più. Ma io ho detto che la mattina non mi succede 3 volte, non che non ce la faccio più. Tu hai già fatto più, perché ha preso un libro. Vabbè, io l'argomento di Biagli. Vabbè, poi può anche essere. Succede a tante persone, signor Padre. Per carità, io lascio a quelle persone da fare, non so. Dobbiamo essere sinceri nella vita. No, sì, sincero a tu. Io sono sincero, non ti preoccupare. Io di me lo gioco, di te non lo gioco, però. Oh, è come il coglietto, basta toccare poco poco le orecchie. Sì, ma ci avrei messo qualche filo. Due fili, no? Come tocchi l'orecchio, che mi dà conferma qua avanti c'è sempre il più sereno. Certo, mi sa che sei l'unico che riesci a sentirmi, cavolo. Non lo so. Magari perché siamo più vicini. Cosa? Ah, se la posso fare in via Milano. Io non ti sento, sei 9:25 Radio 12, cambio. Non sei altro, aspetta che vengo a casa e ti faccio biondo. Buonasera a tutti, la vi sto ascoltando che sto guardando avanti E-Wix. Ah, il film porno sto guardando, sa. Il film è pollo. Mi sto riprendendo questo. Sono tutta la settimana chiuso in casa, con la febbre. casa tua e magari tu ma hai pensato tu una volta a cambiarlo e ci ha preso ci sia preso prima di ricassati a svuotos a svuotos a svuota se già è svuotato lui che si è rifiuto e infatti tu siamo uno svuotos magari andiamo a darle un paio di euro via non di più mi sono la voce da Bidavizi. Dai, mi piace, sono un bravo ragazzo, insomma col computer è qualcosa di abbastanza, tu lo sai. Cava cava, cos'è, cos'è, cos'è questa sensazione? Raga, ti faccio una pastola, cos'è? Scusa, cos'è? Mi daresti una pizza? Completo, chiedo, non credo che sappia trattare. E lo sfido. È un vacillante con i computer, cos'è? È bravissimo col computer. Mi sta cercando a casa, già mi hanno messo internet point. Capace Roger, se scendi ti offro una birretta o il cazzo che vuoi, dai, scendi. Basta che non c'è un cazzo, ciò ti comporta. Ma che agrosia? Cazzo. Chiama davvero, Perpa! Dico Alex, non si può fare cadere adesso! Chiama, chiama! Perpa sta venendo l'assoccamento, dai! Però me la chiudo qua, saluto qua, buonanotte, ci pare a tutti! Ciao, cari, sono Emilio, Alessandro! E tutti quanti gli avventori degli ascoltori, dai! Ciao, buonanotte a tutti! Ascoltone, cazzo, non può prendere un cazzo. E fatta entrare. Cappa, tanti saluti, ciao. Ne approfitto per andarmene anche io, a nanna. Ciao. Ciao Pierpaolo, buonanotte, ci sentiamo tra poco per domani. C'è anche a Carbuca, no, a io, mi sentite anche lui. E buonanotte per domani. Buon lavoro. Ma sono cercato in Romania, Gianni. Non sto parlando come Yugi, buonanotte Yugi, aspetta un attimino qualche. Buonanotte Yugi, lei, la risentiamo alle prossime, davanti qualche, i citati di G. Mentre da forchetto. Prima lampara presa per qua, mamma, io vieni fuori. Passato faccio sempre la gengiva un po' irritata. Brava. ci vuole un qualcosa a casa. È promessa dei romani, dai. Vabbè, un saluto, vi auguro una buona giornata per domani, io faccio quello di dire, che ne so. Non lo so, adesso mi siamo le 11. Io ti dico una cosa, già. Mari, no, non è mare, non è mai mare chissà cosa. Quindi o che se ne parli bene o che se ne parli male, non è mai male, a parte mia. Per me va fatto bene, basta che sia femmina, a me è andato pure, che non c'è un cesso naturalmente. Vabbè dai, ciao ciao, buonanotte dai. Ciao, ciao. E pure.